volte di più, di più, di più. Sempre ad occhi aperti, man, volte di più, di più, di più. Meglio sognano, homie, yeah, yo. L'atmosfera in strada dà una brutta impressione. Racconto di una city coperta da un nuvolone. Crolla un temporale non di pioggia ma di problemi che vengono già a ripetizione. Player po, po, uno dopo l'altro player po, po, po. E fermati che cazzo man, non è facile stare qua giù. Soprattutto se rimani senza cash, senza più, senza fighe, senza mezzi. Rimane questo groove, quella roba che mi fa andare su. E voi non abbiate fretta, non mi togliete player. Dovessi morire qui sopra micro in saletta. Player c, c. I player sognano molto di più, di più, di più, di più. E hanno un low pro gioco per cercare di buttarli giù, buttarli giù. I player sognano molto di più, di più, di più. E questo è my game, stiamo arrivando player, fuck you. E di sicuro oh, mi sognano più di questo, questa storia va avanti già da un pezzo. Ah, prezzo questa vita se non penso al prezzo. E quanto amore ha se gli togli il sesso. Se solo ci fosse qualcosa di più, forse mi vedrebbero più spesso in centro. Ma pur sapendo chi vince e chi ci sta più dentro, io batto 5 solo a chi mi guarda dentro. Vaffanculo il resto, non posso pensare di perdere una chance. Devo prenderla al più presto. Voi volete fare sul serio? La mia pena si trasforma in una click clack. Non fate più testo. Player sognano molto di più, di più, di più, di più. E hanno un low pro gioco per cercare di buttarli giù. Player sognano molto di più, di più, di più. E questo è my game, stiamo arrivando player, fuck you.